Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Leggevamo queste parole di Gesù questa mattina all'inizio della nostra giornata e ci hanno dato come l'orientamento per la nostra orazione in vari momenti, cercando di capire, di riflettere, di meditare su, parlando con il Signore, su come ci hai amato, Signore, come ci hai amato, perché noi possiamo poi meditare su questo amore, anche gustarlo e vederlo, e poi poterlo poi riflettere intorno a noi. E vedevamo così per grandi linee l'amore del Signore che si manifesta nel crearci, nel farci diventare figli di Dio, nel chiamarci alla santità. E adesso io vorrei riflettere insieme con voi e meditare con il Signore soprattutto su come l'amore di Dio si manifesta nella nostra vita, non solo all'inizio della nostra vocazione, no? Quando noi ci rendiamo conto che il Signore ci chiede di seguirlo, di stargli vicino, di vivere la nostra vita con Lui, ma si manifesta continuamente lungo tutta la nostra storia. Quindi la chiamata alla vita cristiana, la chiamata battesimale e anche le successive vocazioni specifiche che noi riceviamo, i compiti che il Signore ci dà, il posto che ci assegna nella società e nella Chiesa anche, sono realtà attraverso le quali Lui ci dice che ci ama. San Paolo dice nella prima lettera ai Corinzi che ci sono alcuni tra voi che sono, ecco, che sono chiamati a essere apostoli, poi evangelisti, profeti. Insomma, i compiti anche nella Chiesa sono molto diversi. Però poi lui dice a tutti, chiedo e suggerisco di attingere al carisma della carità, che è superiore ad ogni cosa. Ma io vorrei che noi meditassimo sul fatto, pensando alla nostra vita, no? Pensando a come in questi stessi giorni noi siamo chiamati a riflettere sulla nostra vita davanti al Signore, guardandolo negli occhi, ascoltando la sua voce e ricevendo la manifestazione del suo amore ancora una volta in modo molto esplicito. E considerare come lungo tutta la nostra vita, lungo tutta la storia del nostro amore con Lui, il Signore si fa vivo, dimostra il suo amore, no? Ci viene incontro, ci viene a trovare, ci aspetta. Pensate che quando citavamo in una meditazione precedente la parabola del figlio al prodigo, cosiddetta, del padre di quella parabola, allora se noi mettiamo gli occhi proprio su di lui, che è il protagonista vero, no? Il padre che lascia che il figlio più piccolo si prenda l'eredità e lo lascia libero, no? Lascia che vada, che faccia l'esperienza di cosa vuol dire stare al di fuori della famiglia, della casa del padre, e poi dopo anche, ecco, lui, volevo dire, se noi guardiamo il padre vediamo che questo figlio più piccolo lo attende ogni giorno, quindi si mette sulla terrazza della casa e guarda e spera. E sicuramente, siccome questo padre è la figura di Dio, possiamo dire che agisce come Dio per chiamarci, perché torniamo a Lui. In effetti anche quando si medita sulla conversione, quando si riflette su ogni tipo di ritorno, anche di persone che sono dal punto di vista della pratica della vita cristiana, dei sacramenti, sono molto distanti e magari anche non hanno la fede o dicono di averla perduta o non ce l'hanno per nulla, ma vengono dall'assenza totale, anche non sono battezzati. Anche quella prima conversione è sempre risposta ad una grazia del Signore, no? Anche il ritorno è sempre la grazia di Dio che ci precede, è sempre l'aiuto di Dio che ci precede, è Lui che entra nel cuore e ci riscalda, ci facilita il ritorno, ci chiama, vieni a me, no? Torna a me, figlio mio. Ecco, però l'atteggiamento di Dio in quella parabola è di attesa, l'attesa vigile. E tante volte il Signore con noi fa così, noi magari non ce ne accorgiamo, noi Signore, ci distraiamo, magari noi siamo molto presi dalle nostre cose, magari siamo anche molto presi e anche a volte molto preoccupati, a volte anche angosciati, a volte insomma, ecco, scoraggiati. E tu ci guardi, ci scruti da lontano o da vicino, ci attendi. Quindi tante volte lungo la storia d'amore della nostra vocazione cristiana, il tuo amore, Gesù, si manifesta in mille modi diversi. E noi dobbiamo saperli riconoscere quando accadono, se è possibile. A questo serve anche la nostra orazione quotidiana, se è possibile, quel tempo per Dio che noi dedichiamo a Lui, o anche l'esame, quei pochi minuti di riflessione sulla nostra giornata con Lui. Si tratta di vedere cosa è successo oggi nella mia vita, come ti sei fatto presente tu, come mi hai amato, come mi hai amato. È più bello, no? Fare l'esame di coscienza così, che non vedere come non ti ho amato io, che pure è anche interessante, anche questa parte può essere importante, o come ti ho amato, no? Perché si tratta di vedere anche il positivo, anzi di vedere prima il positivo. Una volta invitammo al Castello di Urio a parlare a un convegno di sacerdoti il Cardinal Tonini, e allora in una delle circostanze lui disse. Ci raccontò anche quando era parroco a Salso Maggiore, se non ricordo male, che aveva migliaia di cose da fare, era preso sempre, però diceva, e lo consigliava ai sacerdoti, anche nelle giornate più difficili, anche in quelle in cui non avevo avuto tempo per tante cose, almeno alla fine della giornata un quarto d'ora davanti al tabernacolo per vedere se tu e io, Gesù, andavamo ancora d'accordo. Ma in effetti anche in quella giornata dove magari noi ci siamo dimenticati di te, oppure stiamo continuando a pensare vorrei pregare ma non ho tempo, vorrei pregare ma non riesco, vorrei fare quest'atto di carità, ma tanti vorrei, con cui peraltro si può pregare. La nostra comunione spirituale è vorrei Signore riceverti, spesso usiamo quella formula antica che di chissà da dove arriva, no? Senz'altro la insegnarono al piccolo José María Escrivá quando si preparava la comunione e il buon frate che lo istruiva. Vorrei, Signore, vorrei. Anche questa è una bellissima preghiera che manifesta il nostro desiderio, no? Però anche in quelle giornate, anche se noi ci dimentichiamo di te, tu ci ami, no? Tu ci contempli, Tu ci guardi, tu ci aspetti, tu ci chiedi, tu soffri con noi, tu ci sostieni. sostieni, ci incoraggi. Alle volte è come quel, appunto, quel padre della parabola, per cui stai sulla terrazza e guardi se stiamo arrivando, ci attendi, ma non ti scoraggi se non arriviamo, sai che un giorno arriveremo, oppure esci verso di noi, come fa poi la sera, quando ci sono già le musiche, le danze, i canti e il profumo di arrosto e del vitello grasso. Allora esci verso quel figlio che si era seccato, che non voleva entrare, no? Probabilmente, fra l'altro, perché il servo ha detto qualcosa al padre, no? C'è questo tuo figlio che si è seccato, no? Che non vuole entrare. Oppure perché tu non lo vedi arrivare e lo vai a cercare. Quindi altre volte il Signore ci viene a cercare. Come il pastore che lascia le 99 pecore che stanno bene, che sono ben accudite, che hanno cena, che hanno giaciglio, che hanno tetto che le ricopre, e vieni a cercare l'unica che si è smarrita e vai per i monti e per le valli e per i dirupi, e quindi con fatica, con i graffi prodotti dalle spine. Vieni a cercare la pecorella smarrita e poi la vedi ferita e allora la curi subito e poi te la metti in spalla e te la porti a casa. Allora, se in qualche momento noi abbiamo la possibilità, ecco, per esempio, pensando alla nostra giornata, oppure pensando a un periodo più vasto della vita, un anno, oppure pensando addirittura a tutta la nostra storia della vita, qualche volta può servire fare questo ricordo, no? Nei salmi si nota che a volte l'orante prende come oggetto della sua orazione la sua vita, anche con un vasto periodo. Allora noi possiamo guardare come tu ci hai amato, Signore, nella storia della nostra vita, come ci sei venuto incontro, come ci hai aiutato, come ci hai condotto, come ci hai anche circondato di persone buone, di persone adatte a consigliarci, ad aiutarci, persone di ogni tipo e non solo, perché a volte non solo persone della Chiesa, anche persone che non, per motivi umani ci sono di aiuto, ci sono maestri, ci sono, stanno accanto a noi come consiglieri. O nel nostro percorso, nella nostra formazione globale, no? Come per esempio mi ricordo, non so se l'avete letto, lo state leggendo, questo libro di interviste su Giovanni Paolo II, quando a un certo punto intervistano il filosofo Stanislav Grigel, che è stato molto amico suo, anche allievo in parte, poi collaboratore, si è trasferito a Roma per insegnare all'università che Giovanni Paolo II ha fondato, di studi sulla famiglia. E allora lui svela così un particolare che io non conoscevo della giovinezza, dei primi passi nel sacerdozio di Giovanni Paolo II, no? Parla di un personaggio che lui diceva: il lavoro, la vita e il lavoro dell'uomo dipendono non solo da lui ma anche dall'humus in cui si trova, che è costituito dalla storia, dall'ambiente, dalla cultura. Molto già è stato detto della storia e della cultura polacche, senza le quali non è possibile comprendere né la persona di Giovanni Paolo II né la sua azione pastorale. Poco conosciuto invece è l'ambiente di Cracovia con le persone che sono state decisive per la sua vita. Prima di tutto occorre ricordare la figura di Jan Petrasko, grande vescovo, oggi servo di Dio, che mostrò al giovane sacerdote Wojtyła la via che conduce ai giovani. Giovanni Paolo II stesso ne diede testimonianza nel telegramma inviato a Cracovia per la morte del vescovo. Tu mi hai aperto la via che porta a loro. Ricordo una cena del Papa con Monsignor Petrasko. Quest'ultimo gli aveva portato in dono l'ultimo suo libro. A un certo punto il Santo Padre gli disse: Vescovo Jan, io imparo la teologia da te. Petrasko rimase assai perplesso e, uscendo dall'appartamento pontificio, chiese a me e a mia moglie: ma ditemi, ma l'ha detto sul serio oppure scherzava? I miei libri sono per i parroci. Ma il Papa, parroco del mondo intero, non aveva scherzato. Monsignor Petrasko è stato uno dei più grandi maestri della fede nella Chiesa polacca del XX secolo. Per me è un vero padre della Chiesa. Per cui, attraverso questo esempio, noi comprendiamo come nella vita di tutte le persone, lo si nota particolarmente nella vita dei santi, che hanno avuto altri santi intorno che li hanno aiutati, no? Prima di questa meditazione ho visto una foto con Paolo VI e Don Alvaro del Portillo che parlano, no? E adesso vengono beatificati a distanza di pochi giorni. Ma è sempre così. I santi, insomma, si fanno compagnia, si aiutano e anche si aiutano a diventare santi a vicenda, no? Ma comunque, ecco, no, tu Gesù ci ami perché metti sulla nostra strada delle persone che ci parlano di te, che ci aiutano a venire a te, che ci formano, che ci donano i loro doni. Continua il giornalista, chiede a Grigel in che cosa consisteva il metodo pastorale di Monsignor Petrasko. E risposta: nel non avere alcun metodo concettualmente elaborato, semplicemente egli era sempre con noi giovani, non solamente in chiesa, pregava con noi, pranzava con noi, meditava e si divertiva con noi. Guardando a lui vedevamo un modo affascinante di essere nel mondo. Affascinati cercavamo la sorgente dalla quale lui in ginocchio attingeva l'acqua. Del sacerdote che non sta in ginocchio si potrà imparare a bere dalla bottiglia delle bevande elaborate, artificiali, ma mai la pura acqua sorgiva. Sono stati Giovanni Paolo II e il vescovo Petrasko a farci vedere come la cultura consista nel saper coltivare la terra sulla quale l'uomo cresce e matura per risorgere, secondo l'espressione di un grande poeta polacco da loro spesso citato, Norwid. La cultura, ci dicevano, non si riduce all'erudizione, anzi nulla vi è di più pericoloso per la società degli eruditi privi della cultura, perché solo la cultura è vivificante, perché è per risorgere. La cultura o è pasquale o non è cultura. Da questo stare insieme nacque una profonda amicizia, una di quelle amicizie che valgono per sempre, e non solo tra loro e noi, ma anche tra noi stessi. In questa amicizia l'aiuto, o se si preferisce il lavoro pastorale, era reciproco. Wojtyła e Petrasko aiutavano i giovani e i giovani aiutavano loro a cercare Dio e a camminare verso di Lui. I nostri vescovi erano perfettamente consapevoli che l'agricoltore cresce e matura insieme con le piante affidate alla sua cura. Anche questo noi dobbiamo considerarlo come Gesù che si mette al nostro fianco e cammina con noi come faceva con i discepoli. Pensate ai discepoli di Emmaus. cammina con loro e quindi noi possiamo considerare come, e lo so che lo facciamo, no? Come una grazia di Dio, come una vicinanza del Signore, come un concreto amore per noi, come io vi ho amato. Il fatto di metterci accanto persone, anche persone che noi aiutiamo o che noi educhiamo e che ci educano e che ci aiutano reciprocamente. È bello riconoscere questo. Signore, tu mi ami mettendomi accanto persone da aiutare e questo mi aiuta. Persone da formare, questo mi forma. Persone da amare e che mi amano. Tra gli amici non ci sono barriere, loro due erano per noi sempre raggiungibili, disponibili. Potevamo andare a trovarli quando volevamo, si poteva bussare alla loro porta anche di notte. Le pecore non chiedono udienza ai pastori, li seguono giorno e notte. Se non sono in condizioni di farlo, è segno che sono pecore senza pastori. Il Signore, tu Signore ci ami nella storia della nostra vita e in mille modi. E noi ti chiediamo la grazia, lo chiediamo alla Madonna che ha questo dono di rendersi conto di tutte le cose che accadono, di accorgersi che manca vino, di accorgersi e di registrare tutto quello che viene detto di lui, dai pastori, dagli angeli, tutto quello che accade, no? E chiediamo il dono a Dio e alla sua Santissima Madre di sapere leggere ogni giorno la tua ordinaria e allo stesso tempo meravigliosa provvidenza con la quale tu ci segui. Questa mattina abbiamo letto una parte del Salmo 139, quella che loda Dio perché ci ha creato come un prodigio, no? Come una meraviglia stupenda, e con la quale noi lodiamo insieme con Giovanni Paolo II tutti i giorni, no? Possiamo lodare Dio con questa preghiera. E allo stesso tempo, ecco, l'inizio del Salmo anche ci può aiutare a considerare l'amore di Dio in ogni giorno della nostra esistenza, in ogni piccola cosa che accade. Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Intendi da lontano i miei pensieri. Il Signore legge nel nostro cuore. Noi anche quando ci distraiamo nell'orazione, nella preghiera possiamo dire: Signore, ti offro tutte le distrazioni, ti prego per tutte le persone che mi sono venute in mente, per tutte le circostanze che mi sono venute in mente in queste distrazioni. Tu hai ascoltato le mie distrazioni. Tu conosci dove scappa il mio cuore. Ti affido quello che turba anche il mio cuore, quello che riempie il mio cuore. Intendi da lontano i miei pensieri, osservi il mio cammino e il mio riposo. Ti sono note tutte le mie vie, cioè tu sai tutto quello che io faccio. Guardate che Epicuro diceva: delle piccole cose Dio non si preoccupa. E invece noi sappiamo che è il contrario. E Gesù dice che il Signore conosce il numero dei capelli del capo e sa e si cura anche dei passeri del cielo e del loro cibo. Di ogni piccola cosa si cura il Signore. Per cui noi vogliamo riconoscere il tuo amore e ringraziarlo in tutte le piccole cose che accadono nel nostro giorno. La mia parola non è ancora sulla lingua ed ecco, Signore, già la conosci tutta. Alle spalle e di fronte mi circondi e poni su di me la tua mano. È un abbraccio totale quello che il Signore Dio dà a ciascuno di noi, sua creatura, suo figlio prediletto, nel quale si compiace. Alle spalle e di fronte mi circondi e poni su di me la tua mano. Meravigliosa per me la tua conoscenza. E può essere che riconoscere l'amore di Dio sia un po' più difficile che riconoscere l'amore umano. Questo è anche uno dei motivi per cui il Signore dice: amatevi come io vi ho amato, perché così questo amore umano, vissuto intriso dall'amore di Dio, dice l'amore di Dio alle creature, no? Però noi vogliamo riconoscere il tuo amore in ogni istante della nostra giornata. Aiutaci a riconoscerlo, che il nostro angelo custode ci aiuti ad accorgerci, che lo Spirito Santo, che ci parla sempre di Dio Padre e di Dio Figlio, e che è l'amore di Dio stesso, ci aiuti a riconoscerlo. Santa Maria è esperta dell'amore di Dio, prega per noi.